Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti. Fra di sinistra, omosessuale e nero, qual è la peggiore? La peggiore di sinistra. Poi secondo me viene l'omosessuale e il male minore è il nero. Forni per... Sì, assolutamente. Sì. I negri. Negri. Comunisti. Ebrei. Chi lasciamo fuori dai forni invece? Noi, italiani. È una questione molto spinosa e molto delicata, quella che voglio affrontare questa mattina. L'idea mi nasce da un elemento piuttosto paradossale rispetto a quello che normalmente è il dibattito sulla politica. Una persona che nulla a che fare con la politica, che è Chiara Ferragni, che è un influencer, che ha 20 milioni di seguaci, ieri ha rimandato ripostato un pezzo che era uscito su un sito che in qualche maniera fa un reportage di quello che accade in Italia per persone che anche non vivono nel nostro paese, che aveva dato un commento molto tranchant, molto sicuramente senza ambito di ambiguità rispetto ai fatti di Colleferro, dicendo che quattro fascisti avevano ammazzato a botte un ragazzo nero. La Ferragni ha ripostato questo post facendo sua l'ipotesi che comunque nel nostro paese esista ormai una deriva molto felpata ma molto tollerata verso uno sdoganamento di quello che è un atteggiamento fascista. È stata naturalmente attaccata da un'infinità di persone, quelli che erano felici, contenti di vedere tutti i giorni la vita della famiglia felice, della Ferragni, Fedez e il loro bambino, che altro non sono che stampelle in carne di prodotti da vendere, ma questo è il suo lavoro di imprenditrice, una bravissima imprenditrice. La Ferragni si sbilancia con un giudizio politico, che è singolare. La Ferragni non è certo una gruppettara, non è certo una ragazza con ideali di tipo politico, ha fatto dell'imprenditoria social la sua chiave di successo. È stata molto brava, grande ammirazione per lei e per chi lavora con lei. Però evidentemente la Ferragni ha intuito che in questo momento tra i trend topic era prendere parte a quello che è un dibattito che sta attraversando la nostra nazione. Un fatto di cronaca orrendo, schifoso, un ragazzo inerme viene ammazzato dalle ultime anticipazioni di stampa, con violenza, con cattiveria, gli sono saltati addosso da un gruppo di energumeni di paese la cui chiave di vita era la sopraffazione, l'ostentazione della forza, l'ostentazione della spavalderia, l'ostentazione e della legge che vince il più forte. Beh, la Ferragni ha fatto di tutto questo una sintesi e si è messa comunque, è entrata nel dibattito. Oggi in tutti i giornali non si parla che della Ferragni, quindi lei comunque ha raggiunto il suo scopo, ha colpito il suo target. Io stesso ieri sera sono stato chiamato dal mio giornale per fare un commento su questa vicenda e l'ho commentata così. Non sta a me definire quanto la Ferragni abbia titolo per fare analisi del genere, sta di fatto che i picchiatori di Colleferro nella loro rappresentazione iconografica non sono altro che il dark side, il lato oscuro di quello che è Fedez, che in fondo anche lui è palestrato, muscolato, tatuato, ma un bel ragazzone, un bambolone da salotto, capito? Loro ne rappresentano, come se fosse un film di supereroi, l'aspetto del supereroe quando esce fuori dal controllo e entra nel lato oscuro della forza. Ma detto questo, perché incazzarsi? Perché oggi c'è una fetta d'Italia che si offende, una fetta d'Italia che fa il distinguo se si dice che quella è stata un'azione fascista. Guardate, chi parla non ha assolutamente la qualifica di verginella per poter parlare di fascismo. l'ho detto più volte, ne ho parlato in varie trasmissioni con Panza, vengo da una famiglia radicalmente fascista, mio nonno era nella Repubblica Sociale, mio padre era nella Repubblica Sociale, io stesso ho passato una gioventù in cui ero definito, classificato come fascista, perché era un periodo particolare in cui o eri di sinistra o eri di destra, non c'era via di mezzo, e io per origini familiari, per spirito di rivalsa in una città in cui le persone più facoltose, con le macchine più belle, con i viaggi più belli, con le donne più belle, erano tutti figli di dirigenti del Partito Comunista, ero di destra, sicuramente. Detto questo, oggi faccio una riflessione. Chi è che si scandalizza se si dice che quella è un'azione fascista? Profondamente è parte di quella deriva che sta veramente avendo verso il paese, verso un atteggiamento fascista. Ora, fascista non è soltanto il vecchio nostalgico, il Tamarro che si tatua la testa del duce, quello che si mette faccetta nera a tutto volume dall'autoradio a palla, quello fa parte ormai di un folklore che va visto con un senso quasi commiserazione, è come le proloco quando vogliono ricostruire il Medioevo, il Rinascimento, fanno quelle terribili sagre paesane che si vedono signore improbabili vestite da damigelle o paggetti in calzamaglia che fanno ridere, è la stessa cosa. Non bisogna esagerare, drammatizzare l'aspetto nostalgico del ventennio. Noi non abbiamo fatto i conti con la nostra storia, è molto chiaro, e quindi questo cascame fa parte. No, quello che fa paura è un'altra cosa. Lo sdoganamento è un atteggiamento che oggi possiamo sinceramente chiamare fascista, che è un non adeguamento al livello di civilizzazione che abbiamo sicuramente ottenuto in questi ultimi decenni. Fascista chi pensa che la legge del più forte è quella che deve valere. Fascista è chi pensa che non possano esistere differenze rispetto a un modello ortodosso, tetragono, intoccabile, classico, di ordine naturale, delle capacità di pensare, di definire il mondo, di avere preferenze di tipo affettivo, di tipo sessuale e di avere un'idea serena e leggiadra di quello che oggi è l'umanità, senza porsi problemi, tu sei diverso da me, tu hai la faccia diversa, tu sei nero, sei bianco, sei giallo. Fascista è chi ha superato questo cascame, che non si pone più il problema, io sono italiano, tu non sei italiano, l'orgoglio di essere italiano. Bello è avere piacere delle proprie radici culturali, coltivarle, ma non deve essere un motivo di sopraffazione. Fascista è chi non crede di avere nemici per affermare la sua esistenza. Ora, quello che voglio porre all'attenzione del mio pubblico è proprio questo tipo di riflessione. Siete convinti che qualcosa è cambiato? Guardate, vi parlo a una persona che ha vissuto anni in cui semplicemente non appartenere a un gruppuscolo di estrema sinistra era già considerato essere visti con grande sospetto. Io mi ricordo le liste che uscivano nei giornali locali del mio liceo con l'elenco dei fascisti, che erano quelli che comunque non facevano attività politica a sinistra. E io ero sempre in quell'elenco. Mi dicevo, ma cavolo vogliono da me? Però avevano anche ragione, probabilmente, perché casa mia era piena di teste del duce, ma teste del duce a tutti gli effetti, perché avevano vissuto quel momento di storia e quindi rispettavo il loro rimanere legati a questa idea. Mi fa sorridere oggi che esista un gruppo che si chiama Casa Pound, che si ritengono gli eredi comunque di un pensiero. Quando Ezra Pound veniva a casa mia quando ero piccolo, quando nei canti pisani c'è una poesia dedicata a Nicoletti, che era mio nonno, quindi pensate quanto sono dentro questa cultura io. Eppure vi dico che quello è un atto fascista, è un atto deprecabile, è un atto di persone che non vivono quello che è stato il processo di civilizzazione del nostro tempo. Beh, tutto questo, dopo questa mia lunga premessa, voglio sottoporlo a un sondaggio, perché mi fido della qualità di cogliere il momento emotivo che stiamo vivendo da parte del mio pubblico. 800 24 0024. Un influencer come Chiara Ferragni, con 20 milioni di seguaci, è stata oggetto di insulti sui social perché, commentando la vicenda del pestaggio a morte di Colleferro, ha sostenuto che in Italia ci sia una cultura fascista dilagante. La violenta reazione a questa affermazione rivela in generale un grosso risentimento contro chi definisce in generale fascisti atteggiamenti incivili, razzisti, antimoderni, discriminatori e violenti. Allora ci chiediamo, e lo chiediamo ai nostri ascoltatori, è giusto o no definire questi atteggiamenti fascisti? Si può essere anche oggi fascisti senza necessariamente indossare la camicia nera? Chiamate ora all'800 24 0024 e diteci per voi cosa vuol dire essere fascisti oggi. 1. Essere fascista oggi è riconoscersi nei valori ideologici del ventennio fascista e augurarsi che la storia ci riporti a un tipo di società ispirata agli stessi valori. 2. Fascista oggi può tranquillamente indicare chiunque agisca in nome di un'arretratezza culturale, usando violenza e discriminazione contro i più deboli e tutte le persone che incarnano una forma di diversità, riconosciuta come un limite o una minaccia e non come un valore. 3. Gridare al ritorno del fascismo è il solito atteggiamento di disprezzo buonista, che consiste nel bollare come fascista chiunque non si allinei al pensiero unico mondialista, relativista, filogender, terzomondista e in ultima analisi filocomunista. Avete visto? I nostri sondaggisti hanno dato uno spettro ampio in cui c'entrate tutti. C'entrano quelli che dicono che essere fascista oggi significa riconoscersi nei valori ideologici del fascismo, quindi augurarsi che comunque ci sia un ritorno, che la posizione che oggi viene nascosta di più, perché una volta, almeno negli anni 70, 80, 60, chi era fascista era molto più schietto, lo diceva, sono fascista, non aveva paura, diciamo, di ammetterlo, anche perché era vicino comunque al momento storico. Oggi che è fascista lo nasconde, si fa l'occhiolino, si fa il mezzo salutino, si nasconde la panoplia nostalgica nel salotto di casa, apparentemente dice no, prendiamo le distanze, no, diciamo. Chi è d'accordo con il punto 1 dice fascista è soltanto chi si riconosce nei valori ideologici del ventennio, quindi chi si porta le bandiere con la testa del duce, chi si rifà al fascismo, chi si augura che si torni all'ordine e alla disciplina che aveva il fascismo, che in fondo ha fatto cose buone. 2. Un punto 2. Fascista è chiunque agisca in nome dell'arretratezza. Ormai il termine non è più soltanto legato a un momento storico, come diciamo barbaro, come diciamo guarda è un atteggiamento barbaro, non è che abbiamo un riferimento preciso storiografico conseguente a quelle che furono le orde barbariche che storicamente attraversarono Europa. Dici barbaro perché barbaro vuol dire qualcosa che rende l'idea. Ecco, oggi fascista rende l'idea di chiunque comunque ha un'arretratezza culturale, non ha fatto un salto avanti, non c'entra niente il politicamente corretto, pensa che usare violenza e discriminazione verso persone più deboli sia qualcosa di vecchio, di antico, che fa parte di un mondo passato, non riconoscere il diritto alla diversità, avere paura comunque di persone che hanno punti di vista, tradizioni, modi diversi, significa semplicemente essere legati a momenti passati. Questo non significa che uno poi non deve difendersi da attacchi, non deve difendersi da invasioni, non deve difendersi da chi ci vuole sopraffare, ma il punto di vista noi lo sappiamo dentro di noi, lo sappiamo se noi diciamo ma no, gli immigrati in fondo vanno trattati meglio, poi dentro noi ci stanno sulle palle perché sono neri, perché pensiamo che non facciano niente, pensiamo che è giusto essere in Africa. Ecco, se noi la pensiamo così, un pochino siamo fascisti. La terza posizione dice ma basta, tutti a gridare al fascismo come se fosse qualcosa che torna per spaventarci, il solito atteggiamento terrazziero, buonista, filocomunista, che dà del fascista chiunque non è allineato a un pensiero unico, che vorrebbe un mondo mondialista, relativista, laico, filoscientifico, filogender, cioè significa che ognuno può fare la scelta affettiva e sessuale che vuole, aperto comunque a tutte le possibilità di integrazione fra persone diverse. Ecco, questo è un terzo atteggiamento che accetto, vorrei che anche voi sapete questa cosa, però lo diceste tranquillamente. È un'invenzione della Boldrini, un'invenzione dei buonisti, sono solo dei teppisti. Ma perché avete così paura che la gente li chiami fascisti? Perché difendete con l'orgoglio e la diversità e l'onore di dirsi fascista? Dite sono fascisti, è un atteggiamento fascista oggi, fine. Poi il fascismo è stata un'altra cosa, possiamo parlarne in termini storici. Luisa, buongiorno. Buongiorno signor Nicoletti, l'ascolto, saluti a l'ascolto. Tutti. Lei come la pensa rispetto a questo sondaggio? Vediamo di avere una possibilità di definire un'idea generale. La penso la seconda opzione. Cioè chiunque si comporta da fascista, cioè da non riconoscere il progresso che c'è stato, l'evoluzione civile che c'è stata, comunque da essere chiamato fascista, anche se non mette i gagliardetti. Certo, questo pensa certo, lei? Certo. Io penso che di queste persone non conoscono la storia, non capiscono niente. È perché sono delle persone, tra virgolette, ignoranti, nel senso che ignorano cosa è stato il fascismo, eccetera. Però il loro comportamento imita gli atteggiamenti che c'erano allora in quel periodo. Mi sembra perfetta aderenza al punto 2. Sentiamo Paolo. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Lei come la pensa rispetto al sondaggio? Sì, rispetto al sondaggio mi posiziono al punto 3. Ritengo che... Cioè che diciamo un'esagerazione vetero-comunista, sì. Diciamola così, in cui tutto era fascista. Sì. Guardi che ho vissuto gli anni in cui tutto era fascista. Semplicemente anch'io. Se ti mettevi un paio di scarpe invece un'altra eri fascista. C'è stata questa esagerazione. Certo. Ma le pensa che ancora in questo momento in cui c'è un così generale sdoganamento di certi atteggiamenti, si fa un sì ma però vediamo, capito? Non sia corretto continuare a chiamare fascista che si comporta in maniera... apertamente, perché picchiare, massacrare, fare del proprio culto la sopraffazione fisica, secondo me, che ho conosciuto il fascismo e i fascisti, il neofascismo e i neofascisti, un po' fa parte di quel mondo. C'è anche lo stalinismo, allora, se la vediamo così, la signora vede però sì, sì, guardi, le dico, le dice una persona che sì, sì, si può vedere, allora. Fare questo distinguo in questo momento, sdogana, lei avrebbe più... sincerità nel dire, ma sì, guarda, tutto sommato il fascismo ha fatto cose buone. Lo dice una persona che ha frequentato il mondo della destra, lo so benissimo cos'è, non è esattamente la stessa cosa. In questo momento non c'è da essere nessun tipo di pudore per dire chi vigliaccamente massacra una persona inerme, che guarda caso ha la pelle diversa, ha un atteggiamento di tipo fascista. Non c'è da niente stalinismo, fascismo e quante persone ha ammazzato il fascismo, quante hanno ammazzato lo stalinismo. È un altro tipo di discussione che finisce naturalmente con la condanna generale di ogni dittatura, di ogni sopraffazione. Però in questo caso ritirare fuori sì però voi il ben altre cose, in questo momento delle persone che fanno del picchiare gli altri la loro chiave di valore esistenziale, non alludo a nessuno, in generale, o usano nei social la discriminazione come elemento di coesione, secondo me, questo è il mio punto di vista, è un atteggiamento tipo fascista. Ci fermiamo un istante, poi riprendiamo tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Melog. Chiamate ora all'800 24 00 24 e diteci per voi cosa vuol dire essere fascisti oggi. 1. Essere fascista oggi è riconoscersi nei valori ideologici del ventennio fascista e augurarsi che la storia ci riporti a un tipo di società ispirata agli stessi valori. 2. Fascista oggi può tranquillamente indicare chiunque agisca in nome di un'arretratezza culturale, usando violenza e discriminazione contro i più deboli e tutte le persone che incarnano una forma di diversità, riconosciuta come un limite o una minaccia e non come un valore. 3. Gridare al ritorno del fascismo è il solito atteggiamento di disprezzo buonista, che consiste nel bollare come fascista chiunque non si allinei al pensiero unico mondialista, relativista, filogender, terzomondista e in ultima analisi filocomunista. 800 24 00 24, vedo che il pubblico sta reagendo molto bene, abbiamo un ventaglio di opinioni che rispetterò e manderò nell'ordine in cui mi stanno arrivando. Sintetizzo quello che sono i tre concetti sui quali vi abbiamo interrogato oggi. Allora, per non creare confusione, riassumendo: 1. Il fascismo è nostalgia del fascismo, inteso come ventennio fascista. 2. Il fascismo è ogni forma di razzismo e di ricorso alla violenza. 3. Il fascismo è chiunque sia contro il complotto comunista che vede il fascismo dappertutto. Diciamo, ci sono tutte le possibilità. Franco da Genova, buongiorno. Eccomi, buongiorno dottor Nicoletti. Allora, senz'altro la terza questione. Perché? Perché anche nell'episodio avvenuto appunto lì in provincia di Roma non c'è stato razzismo. Un ragazzo di colore è intervenuto per sedare una risa, non è che sono andati a picchiare lui. Quindi poteva essere un bianco, un giallo, un rosso, un nero, non è una questione di razzismo. Mi dispiace che ne abbiano fatto una questione di razzismo. 2 settimane fa due albanesi, figli albanesi, hanno ammazzato un ragazzo italiano, ci sono passati sopra con la macchina, non è stato detto niente. Questo è un razzismo al contrario. Io vengo, premetto, da una famiglia dove mio padre del 17 ha fatto la guerra, dormiva con il duce, la statuina sul comodino, per dire. Quindi ho avuto chiaramente... Conosco il tipo, sì, però proprio perché lei... viene un'esperienza con la quale mi sento assimilabile. Si rende conto, ma perché abbiamo questo bisogno di relativizzare per un ragazzo nero ammazzato di botte, dobbiamo dire, ma anche gli albanesi hanno fatto lo stesso. Cerchi di vedere più profondo, perché no. Lei sente bisogno di ristabilire un equilibrio, ma altrettanto un atteggiamento fascista, quello dei due albanesi che hanno messo sotto volutamente una persona, è chiaro, ma figuriamoci, non ci piove. Se vogliamo dire che violenza uguale fascismo, va bene, d'accordo, possiamo dire, però... Ma perché questa cosa le fa tanto no. Metta caso che oggi, per definire un atteggiamento rozzo, antico, antiquato, bigotto e tutto, diciamo fascista, perché uno si è sentito offeso? Se diciamo barbaro, mica salgono alle tombe gli eredi degli unni e dice: non osate dirlo, noi barbari avevamo una civiltà. Non è stato dato lo stesso risalto a quell'episodio lì, perché se ne è parlato un giorno, poi è finita lì, per dire, no? Quindi sì, è una questione esistono. Allora, guardi, non voglio entrare in merito, perché sennò facciamo la puntata su questo. Esistono delle lievi differenze su come l'opinione generale sta lavorando su questo episodio. Diciamo la verità, è un po' diversa la cosa. Non è l'episodio di cronaca, due ubriachi mettono sotto uno perché sono dei criminali, degli scriteriati e vicenda. Qui c'è un'operazione ben diversa, cioè tutto un movimento di pensiero. Siamo sotto lezione, è chiaro. Ma io non le voglio, non le voglio far cambiare la sua opinione. Lei è sulla terza opinione, è diciamo una delle posizioni molto rappresentate. Quindi rispetto la sua opinione. Non la condivido, ma la rispetto benissimo, va benissimo. È un'esagerazione chiamarli fascisti. Va bene. Giuseppe. Sì, io sono per il punto 2. Essenzialmente perché se in questo momento io fossi proiettato nel 1920-21-22, allora sarei nel punto 1, ma qui in questo momento chi fa queste cose, chi si atteggia alla violenza è un cretino, non ha cultura, non ha studiato, e la colpa è della nostra scuola poi, È chiara la posizione, se svisceriamo ogni posizione, lei pensa che comunque d'accordo, non si offende a chiamarli fascisti, non c'è motivo d'offesa. Secondo me chi ha rispetto comunque per un periodo storico, perché l'ha vissuto in famiglia, non si offende. C'è altra cosa è chi ha vissuto anche lo squadrismo post-fascista negli anni 70, ho fatto una piccola indagine, dice: ma guarda, non sarebbe mai successo che avremmo bastonato a morte un ragazzo inerme, piccolo e indifeso. C'era sempre un senso dell'onore comunque anche nel nostro essere squadristi, per dire le varie posizioni. Carlo, buongiorno. Buongiorno a voi. L'ascolto. Io mi riconosco all'incirca nel punto 2, anche se è un po' poi mi riconosco nell'1, nel 2, nel 3, nel 4, non c'è, forse anche nel 5. Ma la cosa che a me, sono d'accordo con la Ferragni, certo c'è un clima fascista che si sta diffondendo, ma il clima fascista è anche di chi dà del fascista a chiunque non la pensi come lui, indipendentemente dal terzomondismo, non terzomondismo, gay, tutto quello che si vuole, ma dare del fascista a chi non la pensa come te è una semplificazione assurda della cosa, è una politicizzazione del sistema. Allora, se uno è un delinquente, può essere fascista o comunista, se uno è un non so che cosa, è quello che è, ma perché dare del fascismo? Io non sono fascista, la penso ben diversamente, ma perché dare del fascista a chi non la pensa come te? Dagli del cretino, dagli del delinquente, del disonesto, dell'imbroglione. Però vede proprio su questo punto, che un punto io non ho soluzione. Pongo il problema forte. Ci sto pensando come ci state pensando voi. Il dubbio è questa trasmissione. Io penso che la paura e il fare distinguo ogni volta, dire però anche quelli, anche i comunisti hanno fatto quell'altro, significa di sdoganare. Che lentamente, passo dopo passo, noi siamo arrivati comunque ad avere una sorta di dibattito generale sul fatto se sia fascista o non sia fascista. Dovrebbe essere un dibattito in cui non sarebbe un paese civile, non dovrebbe più porsi questo problema. Non dovrebbe esserci più il problema di fare distinguo, sì, però allora anche l'albanese ha fatto questo, allora anche quello ha fatto questo, quelli che sono di sinistra. Dovrebbe dire comunque chi fa del culto della violenza, della sopraffazione e della discriminazione una sua chiave filosofica, discriminazione di genere, di comportamenti sessuali, discriminazione di appartenenza etnica e via dicendo, comunque sia, chiamiamolo, perché rende bene l'idea, perché è un'idea che dietro c'è sterminio, razzismo, via dicendo, in maniera molto forte, ideologica, ci sono stati delitti da tutte le parti. Però il fascismo rappresenta bene questa idea, quindi è un termine che dà l'idea, senza porsi problemi che ci sia la politica dietro. Questo è un po' il mio punto di vista, però capisco la complessità del rispondere. Silvia, da Reggio Emilia. Ecco, buongiorno, innanzitutto la ringrazio per avermi richiamata. Io appartengo alla categoria numero 3, nel senso che anch'io ritengo che l'uso dell'aggettivo fascista sia usato in maniera molto semplicistica. Tutti quelli che non pensano che si debbano accettare tutti gli extracomunitari che purtroppo arrivano sulle nostre isole e non trattiamo in maniera adeguata sia fascista. E quindi io ritengo invece che concentrare della gente in dei lager quasi, questo sia un atteggiamento fascista. Posso dire Silvia? No, Silvia, ho capito perfettamente, non la voglio interrompere, voglio ragionare con lei. È perfettamente vero come è stato gestito il fenomeno dell'immigrazione in Italia, è stata una cosa scellerata indubbiamente, su cui possiamo parlare, aprire mille capitoli, ma se alla base di tutto questo nascondersi dietro la cattiva gestione dell'immigrazione fa sì che lentamente noi possiamo considerare, non dico normale, ma tutto sommato indifferente il fatto che ci siano dei pestaggi così violenti, la vittima, guarda caso, sia un ragazzo che appartiene comunque a una palese diversità di origine, non si può lentamente scivolare in un'accettazione di un principio che in realtà non credo che lei condivida, che è il principio dell'intolleranza, differenza, di porre immediatamente l'idea di un nemico, il nemico ci rafforza, via dicendo. La mia impressione è che un po' si stia giocando su un'indubbia cattiva gestione di alcuni problemi, quelli dell'immigrazione, per ridare modo ad aprire una fessura in cui può entrare di tutto. Entra sì, però vediamo, la famiglia tradizionale va difesa, giustissimo, nessuno nega questo, sì però il comportamento sessuale diverso è qualcosa di patologico e si ritorna tutto in discussione, sì però questo in fondo era meglio se ne stava a casa sua. Sono persone che picchiano così, ma in fondo erano dei bravi ragazzi. Si torna sempre lentamente a un modello che ci porta a far passare comunque come normalità quello che in realtà dovremmo essere vaccinati, con il più considerato normale. Guardi, io non sono un buonista, non sono un comunista, non sono uno di sinistra. Lo dico perché lo vedo con grande preoccupazione riemergere e dare per normale, in nome di situazioni politiche e sociali, qualcosa che in realtà il nostro pensiero dovrebbe aver già sovrascritto. Ci fermiamo ancora un istante. Melog 800240024, ringrazio Pietro Lacorte che mi segue da Milano, Alessandro Chiappini, Gloria Guerrera e Fabrizio Intonti che mi seguono da Roma. Oggi è un tema delicatissimo, un tema sul cui io ho dubbi mentre ne parlo, quindi è difficilissimo parlarne, ma bisogna parlarne, perché se un fraintendimento rispetto all'uso del termine fascista riapre comunque la possibilità che atteggiamenti fascisti, quindi di sopraffazione, di discriminazione, di razzismo, di non aderenza alla contemporaneità, alla civiltà che abbiamo raggiunto con grande difficoltà, possa creare dei problemi di tipo sociale, forse è il caso di riflettere. Ci fermiamo sulla parola fascista, no, ho posto la domanda rispetto al caso ormai noto di cronaca, cosa si intenda per essere fascista? Fascista è soltanto chi mette faccetta nera ai ritratti del Duce? Fascista è chi compie atti propri di una diciamo di un atteggiamento di sopraffazione, di violenza, di mito della forza, oppure semplicemente un uso improprio della parola fascista che viene fatto per una sorta di lungo cascame di un pensiero dominante che in Italia indubbiamente ha fatto molti danni e quindi il buonista chiama tutti fascista. Guardate, i termini assumono valenze diverse a seconda delle epoche in cui si producono. Se io vi dico parlate a vanvera, lo sapete cosa significa? Cos'è la vanvera? Ecco, la vanvera era un oggetto, una specie di sacca, di di pelle di pecora che portano le signore sotto le crinoline collegate al loro sedere, quando dovevano liberarsi di loro gas intestinali, visto, le facevano dentro questa vanvera e poi andavano a vuotare ogni tanto, quindi era un contenitore per scorreggio di signore, questa era la vanvera. Voi dite, parlate a vanvera non sapendo qual è l'origine. Io penso che oggi si possa dire tranquillamente fascismo, anche se il fascismo è stato un movimento storico, studiato, approfondito, delimitato, tutte le volte che qualcuno non è aderente al proprio tempo, cerca un punto di ripristino col passato, il fascismo voleva ritornare a una sorta di gloria della Roma imperiale, quindi cercava il punto di ripristino, è la prima suggestione che vi ho suggerito all'inizio di questa trasmissione. Fascista che cerca il punto di ripristino, bisogna cacciare la persona diversa perché è un nemico, perché invade la nostra terra, attenta alle nostre donne, vuole coprire le nostre donne, fare figli le sue caratteristiche. Questa era l'elemento tribale che oggi si ripropone. Se lo sdoganiamo, secondo me il termine più aderente a questo tipo di atteggiamento è dire un atteggiamento fascista. Poi pensate come volete. Luigi da Bergamo, buongiorno, l'ascolto. Grazie per avermi richiamato. Ma io mi riconosco abbastanza nel punto 1, devo dire, con qualche influsso del punto 3, nel senso che per me il fascismo è una definizione di un'ideologia, non è la descrizione di un atteggiamento. L'atteggiamento è imbecille, punto. Nel senso che chi si comporta come dal punto 2, okay, ma anche il buonista a questo punto, siccome è per la sopraffazione del diverso da lui, è imbecille uguale. Quindi dovrebbe essere fascista uguale. Invece fascismo, buonista, in teoria il buonista descrive... non è per la sopraffazione di nessuno, è per, diciamo, nella lettura, diciamo, più strumentale. È colui che in realtà non vede alcune criticità, ma vorrebbe bene a tutti, vorrebbe accogliere tutti, vorrebbe dare spazio a tutti. No, perché il buonista invece vuole obbligare me a essere buonista come lui. È un atteggiamento da stato etico. Sì, quello del buonista. Che un buonista si alleni il fisico per poi massacrare le persone per strada non mi è venuto. Sì, sono atteggiamenti a volte intolleranti, l'estremismo di alcuni atteggiamenti ideologici, politici, di comportamento è fastidioso, quelli che vanno a fare le manifestazioni per liberare gli stabulari con le cavie perché le povere cavie hanno diritto di vivere, mi rendo conto sono atteggiamenti estremisti, però qui è una cosa un po' diversa, molto definibile con il manganellamento dell'avversario a priori, con la sopraffazione del più forte, con ritorno a un mondo arcaico, però è rispettabile la sua posizione. Paolo da Verona. Buongiorno Nicoletti. L'ascolto. È bellissima la riflessione, tra l'altro c'è... È complicata Paolo, mi costa tanto. No, mi costa tanto, è molto semplice. Molto la mia semplice, storia personale e familiare mi porterebbe a star zitto, buono e non dir niente, però voglio cavalcare il rischio di pormi questo problema. È bellissimo il suo riferimento alla vanvera, ma... La mia considerazione era relativa alla domanda cosa vuol dire essere fascista. Oggi secondo me l'ordine delle riflessioni è doppio. Primo, chi non ha mai avuto l'occasione di ritenere importante questa domanda e di sentirsela fare appartiene alla classe della borghesia. Chi non ha mai sentito il bisogno di darsi una risposta è esplicitamente fascista. Sono stato chiaro? No, chiarissimo, è una posizione che rispetto al punto tale che lo penso anch'io, perché lo dice una persona che ha conosciuto il fascismo vero delle persone che sono state fasciste, papà e nonno, ha conosciuto il post-fascismo negli anni 70, 80, quando era manichea la divisione fra gli esseri umani, se non eri di estrema sinistra, non dico manco di sinistra, hanno tollerati i figiciotti, quelli della sezione giovanile del Partito Comunista, eri sicuramente fascista, e quindi per rabbia Pertini dice sì, sono fascista, allora che male c'è, capito? E su questo anche invece, oggi è molto difficile, oggi no... è bellissimo il suo riferimento alla vanvera, perché questo negare, questo nascondere i gas, le emanazioni del corpo basso, è una negazione dell'esistenza, dell'identità delle persone. Mi è venuto in questo momento, mi veniva di dirlo, sì, però era questa l'idea, è questa l'idea. Dici, parlare a vanvera vuol dire questo, la vanvera era il sacchetto contiene i peti delle belle damine del 700, forse anche dopo. Bartolomeo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. L'ascolto. Ma io voglio soltanto farmi una domanda. Ma secondo voi che cosa c'è di fascista praticamente in un atto del genere? Cioè, di fascismo, l'unica cosa di fascista che vediamo in questa operazione, va bene, in questa situazione, è l'atto eroico di Willy. Willy si è comportato da fascista, perché è l'unico che si è paradossale, ma è paradossale. Il fascismo è interventismo, il fascismo è guardi, intervento. No, scusi, non posso, da cosa del genere non gliela posso far passare, mi scusi. Adesso non so, la dinamica ancora è incerta, c'è un grande limaccioso a indagare su questa cosa, ma è un ragazzo inerme che semplicemente si è messo in mezzo a una lite fra persone, che erano quattro ragazzi di cui era lui, e quello che è rimasto a terra li sono saltati addosso e l'hanno sfondato. Ora, in questo di fascista c'è ben poco, questa sua lettura gli do spazio, perché do spazio a tutte le posizioni, ma analizzi bene se stesso, se pensa che in questo non distingue fra atteggiamento fascista di chi si plasma un fisico e ostenta un fisico fatto apposta per opprimere e per primeggiare, e chi si trova immischiato in una banale lite post discoteca e viene ucciso. Rifletta lei su questa sua idea, poi se ne prenda tutto il peso e le responsabilità. Franco, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma io penso che qui si tratta di che c'entra poco il fascismo, si tratta di minus habens e basta. E il riferimento al fascismo è chiaramente, adesso io ho letto un libro su Starach, e chiaramente lui era un divulgatore della forza, della potenza. Di chi, scusi, di chi sta parlando? Macho, di Achille Starace? Sì, è un libro su Starace, no? Ah, sì. Sulla vita di Starace, di questo personaggio, di come sia diventato poi il segretario del partito, del PNF, no? E sì, quindi sì. Chiaramente il fascismo è un'esaltazione della forza, della virilità, no? Credere, combattere, eccetera, il salto eccetera, nel cerchio di fuoco. Io sto aspettando, però, tutti questi aspetti che poi rimangono oggi. Il salto nel cerchio di fuoco devono fare i gerarchi, anche se avranno la panza. Corrisponde un po' alle foto divulgate su Instagram dei signori con i tatuaggi, con i pugni alti o che danno calci dimostrando quanto sono forti. Guarda, che io conosco questo tipo di pensiero, questo humus, glielo dico con sicurezza, quello è un atteggiamento della parte peggiore comunque, sia del fascismo che del neofascismo, che oggi non ha più questo nome, non si fa più riferimento a quello, ma delegittimare questa radice secondo me è lievemente pericoloso, che poi la parte brutta, che è quello che ha detto prima l'ascoltatore, che è il borghese che non si pone problemi, alla fine diventa spietato, fa emergere il lato più arcaico, più spietato, comincia a discriminare, comincia a fondare le sue sicurezze sull'annientamento di quelli che mettono in crisi la propria identità e il proprio livello sociale. Il fascismo nasce come un movimento appoggiato dalla borghesia soprattutto. Ci fermiamo, riprendiamo il tema quando avremo più fiato e più elementi. Alla prossima. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.